È con grande piacere che oggi do il benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko a un artista tutto tondo, musicista, voce chitarra dei Tre Allegri Ragazzi Morti, autore, fumettista e anche regista, Davide Toffolo. Davide, ciao, benvenuto a Radio Città Fujiko. Ciao, grazie a tutti. Ti chiamo per chiederti se ti va di parlare del tuo nuovo progetto, del tuo nuovo spettacolo. Sono state annunciate le date del tour, L'ultimo vecchio sulla terra. E volevo chiederti di che cosa si tratta. Beh, nasce da un libro, dal mio ultimo libro fumetti che ho fatto, che è dedicato ad un grande artista che si chiama Remo Remotti. L'ultimo vecchio sulla terra l'ho definito io. Un artista poliedrico che è stato prima pittore, poi è diventato un attore, poi ha scritto delle cose per il teatro e ancora è diventato una specie di stand-up comedian alla fine della sua vita. Un personaggio che mi ha influenzato molto e che mi ha insegnato a ridere di alcune cose, quindi lo spettacolo che farò sarà principalmente uno spettacolo di musica e parola, ma dedicato alla risata, quindi chi viene avrà la possibilità di ridere. A proposito di questa unione tra musica e parola, volevo chiederti un po' come si strutturerà poi sul palco un'unione del genere e come si mischiano di fatto musica e poesia in questo lavoro, in questo progetto. Beh, è un po' una sorpresa, non è che posso rivelarti tutto così, Certo. perché altrimenti tutto si rompe da solo. Però ti assicuro che ci saranno delle sorprese. Per chi mi conosce come cantante dei Ragazzi Morti e anche per chi mi conosce come disegnatore di fumetti. Questi ultimi anni, negli ultimi 5 anni, io ho preso spesso spunto dal modo di presentare i libri che aveva Remo Remotti, un modo che io vidi nel 2005 e che mi rimase dentro in modo molto forte. Era un vecchio che raccontava nella sua fisicità e nel suo modo di stare in mezzo alle persone un alto grado di libertà, un altissimo grado di libertà, e io spero di riuscire a regalare un po' di quella libertà che Remo Remotti mi ha regalato durante il suo spettacolo. Quindi ci saranno tecnicamente, se vuoi sapere tecnicamente come sarà, una parte legata alla parte visual, diciamo così, perciò disegnerò anche un po' dal vero, ci saranno delle cose proiettate, ci saranno dei, diciamo, cosiddetti interventi multimediali, poi alla fine è come vedere le diapositive con gli amici, però insomma sarà così, e poi ci sarà una parte vera e propria di musica, coadiuvata spesso, anche questa è una specie di cosa che forse posso dire, forse no, però lo dico, ci saranno degli ospiti musicali tutte le volte diversi a seconda della città, al varia della città, che mi aiuteranno anche a capire la radice della città, nel senso che Remotti ha scritto anni fa, anzi negli anni 50, una poesia che si chiama Me ne vado da Roma, o Roma addio, insomma, ha diversi titoli, se la cercate da qualche parte, e io chiederò ad artisti locali, ad artisti delle città dove porterò lo spettacolo, di scrivermi una loro Me ne vado da. Sarà un gioco, insomma, per spogliare un po' le città, i paesi dove farò lo spettacolo, per spogliarli un po' e per capirli anche un po' meglio. Ti faccio un'ultima domanda relativa un po' al tour, perché sono uscite le date che sono tantissime, inizierà questo 5 novembre fino al 22 dicembre. Volevo chiederti anche cosa si prova a tornare sul palco dopo questo periodo di pandemia e di assenza così di live e qual è la sensazione di ritornare su un palco a presentare, a portare un nuovo progetto? Dico la verità, con i Ragazzi Morti abbiamo suonato quest'estate tanto, e quindi è un'emozione che conosco già. Abbiamo suonato anche la settimana scorsa con l'Istituto Italiano di Cumbia a Bologna, quindi per me non è un'emozione nuova, però è sempre un'emozione gigante. Speriamo che tutto rimanga da qui in poi, diventi umano, ecco, soprattutto non tanto per me sul palco, quanto per le persone che vengono ai concerti e agli spettacoli, che io definisco i coraggiosi, perché loro sono veramente forti, hanno bisogno di questa cosa, come d'altra parte ce l'abbiamo noi artisti, e vengono e sono venuti in qualsiasi condizione, anche quelle più estreme. Speriamo che i prossimi mesi siano, le prossime settimane abbiano una condizione più umana, soprattutto per loro. Ma sarà una festa, ve lo garantisco. E poi le risate fanno bene in qualsiasi momento, soprattutto in momenti difficili come questo, le risate penso che siano una chiave importante per riprendersi la propria vita. Davide, io ti ringrazio e ti auguro una buona fortuna per questo nuovo spettacolo e chiaramente invito tutte e tutti a seguire le date e a rimanere così connesse con tutti i vari tuoi spostamenti. Quindi ancora grazie e buona fortuna per tutto. Grazie a te e al tuo pubblico, un abbraccio fortissimo.